24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:22 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 con Roberto Scaltritti in regia che ci accompagnerà. Siamo in diretta anche su Facebook nella nostra pagina 24 mattino. Di cosa parliamo nel nostro sondaggio oggi alle 8:30? Parliamo di prostituzione. Il sindaco di Roma Alemanno in un raid per cercare di vedere quale sono la situazione nelle strade dove c'è più prostituzione, ha detto la prostituzione di strada deve diventare reato. Che ne pensate? Parliamo di questo, il tema la prostituzione. Ne parliamo alle 8:30, voi votate su radio24.it, siete d'accordo che diventi reato penale la prostituzione in strada? Votate, ne parliamo dopo, ora la lettura dei giornali. In primo piano. Mercoledì 13 luglio, uno sguardo rapido alle aperture dei giornali dedicate tutte alla manovra, alla situazione finanziaria in Italia. Al Sole 24 Ore, tregua sui BTP, la borsa recupera. Per il Corriere della Sera, tregua sui mercati, manovra lampo. Per Repubblica, manovra al piano privatizzazioni. La Stampa, manovra sì entro venerdì. Il giornale pone questa domanda: chi vuole incastrare Tremonti? Con la foto del ministro dell'economia. Per il Messaggero, dialogo sulla manovra, subito il voto. Il Fatto Quotidiano, guardia di finanza, soffiate e intrighi. È la vicenda P4. Per l'Unità, chi paga la crisi? L'Italia e la bufera economica. Questi alcuni titoli dei giornali, ne vedremo alcuni nel corso della rassegna stampa. Intanto torna il tema mai sopito dei costi della politica. Questo nella prima segnalazione doppia dal Sole, dal Corriere della Sera. Beh, Vittorio Darold sul Sole a pagina 11 fa un confronto. La crisi taglia i costi della politica UE. Riduzioni di parlamentari e stipendi da Madrid a Londra. Ne parlano in Olanda di ridurre i parlamentari, pensate, da 150 a 100 nella Camera bassa e nella Camera alta da 75 a 50, numeri che ci fanno un po' arrossire a noi per quel che riguarda i parlamentari. Così come David Cameron a Londra ha detto di voler tagliare per tre quarti sul fronte delle spese, ha proposto di ridurre il numero di parlamentari. Anche Madrid, anche assediata dagli indignados, ha recepito il messaggio dei costi della politica. Il Zapatero si è dato l'obiettivo di recuperare più di 50 miliardi di euro. Insomma, manca un po' all'appello l'Italia. E a proposito di Italia, su questo tema vi segnalo Gian Antonio Stella oggi sul Corriere della Sera, il classico snocciolare di cifre che ci fanno rabbrividire: se il Molise paga meglio dello Stato di New York. Si parte dallo stipendio di Barack Obama. Per capire qualche esempio, i consigli regionali, scrive Gian Antonio Stella, consiglieri regionali più pagati del governatore di New York, questo è il titolo in prima pagina, poi prosegue a pagina 15. Un consigliere molisano arriva a guadagnare netti 10.255 euro al mese, un consigliere segretario pugliese 11.461. Il presidente della Giunta del Veneto 12.615 euro, il presidente della Giunta in Calabria 13.353. Pensate, guadagnano più di qua in misura netta, il guadagno netto è più del guadagno lordo del più pagato dei governatori americani, quello dello Stato di New York, che prende 10.612 euro al mese, ma lordi, mentre le cifre che vi ho detto prima in Italia sono nette. E vabbè, addirittura pensate che nel Maine il governatore meno pagato negli Stati Uniti prende 4.150 euro lordi. E poi ci sono delle bizzarrie, per esempio denunciate dal consigliere radicale del Lazio Giuseppe Rosso Di Vita. Sapete che secondo le dichiarazioni dei redditi solo una trentina di consiglieri regionali del Lazio dichiara di possedere una macchina. E voi direte: come mai? Perché gli altri, anche chi risulta proprietario di decine di appartamenti intestati, non ha alcuna macchina. Beh, curioso, no? E come mai, ci si chiede? Perché per avere i rimborsi non servono pezze d'appoggio che certificano gli spostamenti. Basta dichiarare di aver compiuto per arrivare alla sede della regione tot chilometri e la regione paga 35 centesimi al chilometro. Ci sono dei consiglieri che pare Dopo le elezioni spostano la residenza o il domicilio il più lontano possibile, magari in una casa più lontana, per dire ogni giorno faccio tot chilometri per arrivare in consiglio regionale. Va bene, la seconda segnalazione è questa. Beh, è il matrimonio più triste del mondo. Ci sono pagine un po' ovunque, quello della principessa Charlene e del principe Alberto di Monaco. Io avevo detto, no? Avevo letto che sui giornali addirittura c'era stato un tentativo di fuga varie volte da parte della principessa prima del matrimonio. Ora, sentite qui, sulla stampa, luna di miele separata per contratto. Cioè, hanno fatto un contratto, sono andati in Sudafrica, lei è sudafricana, per la luna di miele, alberghi diversi. Charlene libera, ma dopo aver dato un erede al principe. Cioè, avete capito, questo è il titolo del secolo XIX. Ci sarebbe un contratto svelato da un giornale sudafricano per cui la principessa, tristissima principessa Charlene, sarebbe libera di poter andare, ma solo dopo aver dato un figlio maschio. Quindi l'erede al trono del Principato di Monaco a Alberto. Patto tra Alberto e Charlene, prima l'erede, poi il divorzio. Questo sul Quotidiano Nazionale a pagina 27. Oh, si sono sposati da 10 giorni fa. 10 giorni fa più o meno, no? Da 10 giorni sono uniti in matrimonio, cioè questo patto pare. Tanto che la stampa titola in prima pagina Luna di Fiele. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:20. Voglio salutare per la nostra intervista l'onorevole Paola Binetti dell'UDC. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Senta, parliamo di testamento biologico, come viene definito, anche se impropriamente questo non è il termine. Non è facile condensare una legge in pochi minuti, però io vorrei 3 punti che oggi sui giornali vengono criticati, tra l'altro, di questa legge. Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicheranno solo in pratica alle persone, un numero ristretto di persone in stato vegetativo. L'idratazione e l'alimentazione assistita non potranno entrare nei trattamenti e quindi non è possibile chiedere la sospensione, e le volontà non saranno comunque vincolanti per il medico. Sa che, onorevole, molti parlano di stato etico, è stato messo il sondino di stato addirittura. Guardi, la lettura che lei ha dato è la lettura in un certo senso più ostile che si possa immaginare da parte di chi non ha voluto questa legge. Io le ridico le stesse cose in termini positivi. I pazienti potranno chiedere tutto quello che vogliono per il momento in cui si troveranno nella condizione di essere incapaci di intendere e volere, meno una cosa. L'unica cosa che non possono chiedere al medico è che il medico metta fine alla loro vita. Punto. Il fatto del sondino vuol dire semplicemente che garantire a questi pazienti, che tenga presente, nella fase in cui non sono pazienti terminali perché sono pazienti in stato vegetativo, serve semplicemente a garantire loro di poter condurre una vita così come lei ed io conduciamo dal punto di vista delle necessità biologiche. Non è dunque una limitazione della libertà di volere anche rifiutare alcune. Allora, vede, lei e io, nel nostro stato di piena coscienza, possiamo rifiutare tutto quello che vogliamo, anche perché abbiamo una possibilità a un certo punto di cambiare idea. Pensi a quante persone cominciano uno sciopero della fame e a un certo punto lo interrompono. Pensi a quante persone decidono magari che non prenderanno farmaci antidolorifici in una sorta di sfida con se stessi, però a un certo punto dicono basta, ho bisogno di questo farmaco. Quando io sono cosciente posso sempre modificare la mia volontà per adeguarla a quelle che sono le situazioni che cambiano. Se però io non sono cosciente, quella mia volontà resta fissata in quell'unico istante in cui peraltro io mi gioco la vita. Peraltro su questo però non si spiega mai perché, certo, uno dice potrebbe cambiare idea in quella condizione ma non è più in grado di esprimere un cambiamento di idea, però non si capisce perché non ci si debba fermare all'ultima presunta volontà, o meglio accertata volontà, come se quella non valesse, insomma. Non ho capito bene il cioè perché non deve valere l'ultima volontà espressa, cioè perché si deve pensare perché ognuno di noi è tipicamente dell'uomo, diciamo, la capacità, la possibilità, la ricchezza, se vuole a volte le direi anche la positiva a volte incoerenza delle nostre scelte, comunque la flessibilità e l'adattabilità dell'uomo di poter cambiare idea, è proprio dell'uomo, cioè la volontà dell'uomo raramente così fissamente vincolata ad una cosa da non avere cedimenti. qualunque proposito noi facciamo, qualunque decisione prendiamo, è sempre sottoposta a una sorta di possibile scartavetramento legato al mutare delle circostanze. Sì. Se io però fisso la mia volontà in un momento in cui, da quel momento in poi, io non posso più modificarla, questo invece di essere un atto di libertà autentico, diventa un atto in cui la mia libertà condanna se stessa a distinguersi. Senta, onorevole Binetti, però a parte le proteste magari dei radicali che hanno una visione della vita... I radicali che... hanno presentato un'infinità di emendamenti. Sì, tutti bocciati. Certamente, tutti bocciati. Hanno avuto un grande merito però, il grande merito di svelare la loro intenzione. La loro intenzione era non contro il sondino di scatole, potrei dire, c'era l'eutanasia. Ma infatti, allora, è una visione, diciamo, forse opposta su tanti valori rispetto alla sua, però uno come il professor Veronesi, che tanto si è battuto, dice, così si crea una sorta di vita artificiale, cioè si decide per legge una sorta di congelamento della vita. Senta, il professor Veronesi sa perfettamente che se lui avesse rinunciato a utilizzare a suo tempo e oggi, come si fa nel centro che lui ancora in qualche modo presiede, allo IEO, tutti i potenti mezzi che la tecnologia mette a disposizione dei pazienti, lui non avrebbe mai ottenuto quell'invidiabile doppio record che c'è nell'Italia, che è, primo, il prolungamento della vita normale, fino a, ormai la logica degli ultra novantenni in un paese come l'Italia è dimostrata, ma soprattutto non avrebbe ottenuto specificamente quell'abbattimento delle morti che c'è molte volte legato, quando una volta si diceva un male terribile, non si aveva nemmeno il coraggio di dire c'ho il cancro, no? quella patologia, lui la vita, grazie a una tecnologia resa amica della vita dell'uomo. Ma questo sì, ma la tutela della vita, onorevole, non è in discussione. Quello che discutono i critici di questa legge è la mancanza a questo punto di libertà di scelta nel momento della morte, che è una fase della vita, poi è la fase terminale della vita. Semplicemente. Ma non è affatto vero, non è affatto vero. Il tema è soltanto che questa morte io non posso anticiparla. Che anche in questo, vede, lei dice, ma io se voglio mi posso ammazzare, stupendo, tu puoi anche fare un suicidio, mi addolorerebbe moltissimo, perché io mi suicidio, come lei ben sa, lo considero un po' una sconfitta di tutta la nostra società, che non ha saputo essere solidalmente vicina alla persona, però una cosa è che io lo faccio da sola, in questo caso io chiedo a un altro di togliere a un medico, a una struttura, quindi questo non è accettabile. Cioè, senta, non però... è accettabile in una cultura che vuole davvero essere dalla parte non è stata questa legge una vendetta per il caso Eluana Englaro, così per esempio Beppino Englaro la definisce una vendetta nei confronti di quei magistrati che guardi, con tutto rispetto ancora una volta per Beppino Englaro, nessuna vendetta nei suoi confronti. Se Beppino Englaro avesse staccato il sondino a sua figlia, probabilmente avremmo espresso un dissenso sul gesto, ma nessuno avrebbe mai condannato Beppino Englaro. Però adesso Beppino Englaro ha voluto fare di quel gesto una legittimazione, che avesse una legge che non dicesse io ho fatto questo in un momento perché ho voluto liberare me dalla sofferenza, perché no, lui ha voluto che quel gesto diventasse legge. A quella pretesa, non solo sua evidentemente, ma lui è diventato il simbolo di questa battaglia, a quel gesto noi diciamo no, non è possibile. Ma in che senso che diventasse legge? Guarda, Beppino Englaro io lo conosco bene, ha voluto solo per 6.000 rotti anni fare rispettare la volontà di sua figlia, poi si può discutere o meno, però ci sono dei giudici che hanno stabilito che questa era la volontà, cioè lui è andato per giudici, diciamo, visto che non c'era una legge. Ha voluto una magistratura e poi una legge. La magistratura che ha permesso a Beppino Englaro di fare questo è stata il settimo intervento dopo 6 interventi precedenti che non gliel'avevano concesso, e se non ci fosse stato il settimo probabilmente ci sarebbe stato il 14esimo, perché lui sarebbe andato a bussare a tante di quelle porte affinché non avesse trovato qualcuno che gli avesse detto di sì, ignorando che prima tutte le sentenze precedenti avevano detto di no. Quindi questa legge serve anche ad arginare la possibilità che giudici diversi dicano delle cose. È veramente così. Certo. Un'ultima cosa, onorevole Binetti, è questa. Un caso Eluana Englaro, però con questa legge non ci potrebbe più essere, cioè un distacco, questo è un dato di fatto. Questa potrebbe essere una buona, se fosse questa una delle conseguenze di questa legge, io direi che è una buona conseguenza. Perlomeno però nessuno dal punto di vista culturale potrà mai più ignorare che compiere un gesto di questo tipo non è solo gesto, come alcuni pretendono di farci capire, un gesto di pietà, è anche un gesto di pesante, profonda mancanza di solidarietà da parte di una comunità che è composta da tutti quanti noi, che si richiede invece dalla parte di questi pazienti. Questi pazienti non saranno mai più soli a combattere una battaglia per la vita. Io intanto qui la ringrazio per essere stata con noi, onorevole Paola Binetti dell'UDC. Insomma, questo tema molto molto interessante, perché poi riguarda tutti noi. Ieri è stata approvata la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, o testamento biologico, se volete definirla così. Ci fermiamo, la pubblicità e il meteo, e poi parliamo di un altro tema, un tema che ha rilanciato il sindaco di Roma, Alemanno, che ha preso la moto, è andato a fare un giro delle ronde per le strade di Roma dove c'è la massima densità di prostitute per strada, e ha sentenziato, ha detto basta, non se ne può più. Ci vorrebbe una legge che proclami la prostituzione in strada reato. Che ne pensate? È il tema del nostro sondaggio. Votate su radio24.it oppure 800 24 00 24. 8:34 minuti, allora, nel nostro sondaggio oggi parliamo di prostituzione, perché vi chiediamo, secondo voi, come ha detto il sindaco Alemanno, la prostituzione in strada dovrebbe diventare reato? Questa è la domanda che vi poniamo, siete d'accordo? E il tema del nostro sondaggio, sentiamo anche subito, sentiremo sulla sigla, che ne pensa proprio il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Ho voluto prendere visione direttamente della situazione in città. Ho preso la moto, sono andato da solo, ho girato per le strade per circa 2 ore. Ci sono molte strade che stanno in ordine, che non c'è nessun segnale inquietante, ci sono però alcuni punti, che spesso sono variabili secondo i giorni, in cui c'è un addensamento di prostituzione. E allora io credo che sia assolutamente necessario approvare una legge che dichiari finalmente che la prostituzione in strada è un reato. È un reato, insomma, questo ha detto Gianni Alemanno. Non bastano le ordinanze, che tante ce ne sono e svariate di vari sindaci, dovrebbe essere giudicata un reato. Che ne pensate? Questo è il tema del nostro sondaggio, ne parliamo con ospiti che saluto. Detto che intanto vi state dividendo totalmente a metà, il 51% di voi dice di sì su radio24.it, bisogna votare, il 49% no, quindi vi state proprio spaccando a metà, cari ascoltatori. Voglio salutare Fabrizio Santori, che è presidente della Commissione Sicurezza di Roma. Buongiorno e benvenuto, Presidente. Buongiorno, buongiorno a lei. Saluto Rosy Guarnieri, sindaco di Albenga, in provincia di Savona. Siamo, buongiorno sindaco, della Lega. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. E saluto anche Carla Corso, che è fondatrice del Comitato per i diritti civili delle prostitute. Buongiorno e benvenuta, Corso. Grazie. Eccoci qua. Allora, Fabrizio Santori, lei appoggia la posizione del sindaco, insomma, non basta l'ordinanza. Perché c'è l'idea di costituire un reato di prostituzione di strada? Si pensa così di risolvere questo problema? Si pensa di risolvere questo problema perché abbiamo visto che con le ordinanze diversi interventi sono stati fatti, in alcune zone è migliorata la situazione, ma in altre purtroppo c'è una recrudescenza importante che i cittadini ci segnalano, vivono il degrado morale di questa presenza, perché insomma sappiamo che la prostituzione non porta esclusivamente la presenza della donna o del trans sulla strada, ma ci sono altri fenomeni che si manifestano con atteggiamenti indecorosi, indecenti, situazioni igienico-sanitarie incredibili, perché alla fine dei vari processi che ci sono stati durante la notte in quelle strade noi troviamo fazzolettini, preservativi, insomma è un problema anche di igienico-sanitario, un problema di sicurezza stradale, perché si pongono sulla strada, insomma ci sono stati diversi incidenti per la presenza delle prostitute. Dunque noi sosteniamo la proposta del sindaco Alemanno, che poi peraltro non è una proposta che proviene da Roma Capitale, ma è proprio un disegno di legge che è stato approvato già dal Consiglio dei Ministri e giace, pensate, dal 13 maggio del 2009 ancora nelle commissioni parlamentari, quindi è una cosa vergognosa sotto questo punto di vista. C'è il famoso DL Carfagna, che io ho qua davanti, che recita così lo citiamo per gli ascoltatori: chiunque esercita la prostituzione, ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con l'arresto da 5 a 15 giorni e con l'ammenda da 200 a 3.000 euro. Questo è il senso, no, sì, Santori? Questo è il cambiamento del codice penale. Poi ci sono altri importanti provvedimenti come la tratta, cioè sì, la prostituzione minorile, non solo, ci sono le questioni che riguardano anche la convenzione di Lanzarote sulla pedofilia, insomma ci sono situazioni importanti che vanno approvate con questa normativa. Insomma interessante però l'idea di istituire questo reato, comunque di portare avanti questo disegno di legge Carfagna-Alfano che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri e poi effettivamente si è arenato in Parlamento, sulla prostituzione in luogo aperto, in luoghi aperti al pubblico. Allora Carla Corso, e poi andiamo dal nostro sindaco di Albenga. Carla Corso, che ne pensa di questa idea? Qualcuno dice ma come? È come se uno vuole risolvere il problema togliendolo dalle strade e mettendolo da qualche altra parte, insomma un intervento palliativo. Lei come la vede? Beh, innanzitutto non è un problema ma è un lavoro. E quindi venga trattato finalmente come un lavoro, come qualche ha fatto problema, tutto il Nord Europa. Qualche problema lo crea effettivamente igienico-sanitario, cioè no, quello che no, ci ha detto Santori non è... Diamo una regolamentazione pari a un lavoro, come hanno fatto, ripeto, in Nord Europa, e quindi si farà emergere un nero, cioè un giro di denaro nero fortissimo, gli facciamo pagare le tasse, li mettiamo assolutamente in regola come lavoratori a tutti gli effetti e copiamo una volta tanto dal Nord Europa come hanno fatto. Però quello che mi interessa a me dire è, primo, un governo che usa costantemente la prostituzione e il mese di luglio e agosto si inventa che la deve abolire, chissà perché, perché luglio e agosto non le pagano, non si sa. La seconda che voglio dire è che l'ordine pubblico non può essere delegato solo a una classe o a un gruppo così piccolo e così fragile come la prostituzione. L'ordine pubblico è un'altra cosa. Sì. Allora non mi vengano a dire che le prostitute di notte creano disordine. Sono altri che creano disordine, sono le persone che vanno in cerca delle prostitute. Ma è chiaro, ma non è una criminalizzazione delle prostitute in sé, cioè è chiaro la situazione, certo. La situazione, i clienti che si fermano, insomma le situazioni di degrado, di schiamazzi. La criminalizzazione esiste nel momento che la vogliono far diventare criminale, quando mi dicono che vogliono fare una legge dove si dice che bisogna arrestare le prostitute, è evidente che è criminalizzazione delle prostitute. Allora, su questo... E quelle di Arcore cosa ne facciamo? Ah, ma che c'entra Arcore? Come che c'entra? Mi scusi. Ma no, ma per una volta non buttiamola subito in questa... No, per favore, io non la voglio buttare in cacciara, però non c'è una prostituzione di lusso e una... che invece va penalizzata. Ci sono delle donne che si vendono e vanno ritenute delle lavoratrici e vanno riconosciute come tali. E questo è un punto che tra l'altro sul quale credo il sindaco di Albenga, che è già stata nostro ospite in passato, Rosy Guarnieri, sia credo d'accordo. Vediamo un po' però, perché sindaco, lei aveva proposto, credo, come dice Carla Corso, un modo per rendere tutto regolare questo lavoro, cioè le prostitute dovrebbero essere considerate le lavoratrici che pagano le tasse e messe in regola. Insomma, devo dire riapertura delle case chiuse, sindaco, molto brutalmente? Ma io direi di sì, infatti io un anno fa mi sono proprio espressa per questo, perché non si può pensare di vietare un'attività che è definita da tutti noi il mestiere più antico del mondo e poi non preoccuparsi di creare un'alternativa. È ovvio, io sono d'accordo sul fatto che deve essere vietata questa attività in strada o in luogo pubblico, ma di certo bisogna trovare una soluzione. Concordo perfettamente con il fatto di classificarlo come un'attività lavorativa, di dotarle di partita IVA, perché così era stata il mio consiglio al ministro Maroni: diamogli la partita IVA, regolarizziamo in quale luoghi, in quale strutture possa essere svolta questa attività e regolarizziamo la posizione assicurativa. E invece la vicenda del sindaco Alemano, cioè la posizione del sindaco Alemano, lei da sindaco cosa dice? Cioè è una posizione comunque a dire non se ne può più in alcune zone di degrado che comporta il fatto dell'esercizio della prostituzione in strada? Intanto è ammirevole il fatto che un sindaco di una città grossa come Roma, e con tutte le particolarità e le criticità che ha, vada a ispezionare il territorio. Questo è ammirevole e quindi riconosco ad Alemanno una buona capacità di amministrare la sua città. Comunque, sicuramente quello che ha rilevato Alemanno, che a alcuni punti della città si presenta questo problema, che è di decoro, di igiene pubblica, ma vi è anche nel caso della mia città che molte volte le prostitute si posizionano in zone dove vi sono delle abitazioni, quindi diventa anche un disturbo della quiete pubblica. Ma su questo, Santori, vorrei, perché dice non è sufficiente l'ordinanza, perché tante volte noi rimase, mi verrebbe quasi da rimettere in onda il Cacciari d'epoca, che qui proprio a questi microfoni ci disse, magari lo recuperiamo, da sindaco poi uno non ne può più perché c'è magari quello che si lamenta, c'è la prostituta sotto casa, allora uno gli fa la bella ordinanza e il cittadino non rompe più le balle. E lei dice, Santori, non bastano neanche le ordinanze per combattere questo fenomeno. Guardi, noi avevamo pensato che con un'ordinanza si potesse risolvere il problema, in realtà all'inizio noi abbiamo liberato le strade, cioè al 95% le strade erano libere dopo il settembre del 2008 quando il sindaco Alemanno ha firmato l'ordinanza. Successivamente, pian piano, fatta la legge, ho trovato l'inganno, perché poi questa è l'ordinanza che cosa fa? Fa una sanzione amministrativa sia al cliente che alla prostituta. Noi ne abbiamo fatte 10.000 10.500 soltanto nel 2010. Qual è l'inganno che si trova? O le pagano i protettori o non le pagano, quindi non sanno, non, le forze dell'ordine non hanno gli strumenti per accertare dove poter notificare la sanzione amministrativa. Cioè, ma la sanzione amministrativa del cliente la paga il protettore addirittura? No, stiamo parlando soltanto di quelle delle prostitute. Infatti i clienti adesso si sono riorganizzati insieme alle prostitute, noi abbiamo pochissime multe sui clienti perché non li troviamo più effettivamente nel contrattare la prestazione, ma si telefonano, si danno appuntamenti, però si danno appuntamenti dentro i landroni dei palazzi, all'interno di aree comunque dove vivono i cittadini, quindi aree completamente urbanizzate, quindi con situazioni di gravissimo disagio. Quindi servono degli strumenti alle forze dell'ordine e il cambiamento del codice penale è l'unico strumento che noi, con cui noi possiamo lavorare. Insomma, l'unica cosa ci troviamo questa in grande difficoltà. Dice inasprire le pene, inasprire le sanzioni, inasprire, istituire proprio il reato di prostituzione. Il reato, questo, ma che vale anche per i clienti. Paolo da Siena, buongiorno. Ah, buongiorno. Premesso che sono un berlusconiano di ferro, vorrei dire che approvo molto quello che ha detto la signora, credo sia la segretaria delle prostitute. Carla Corso, fondatrice del Comitato per i diritti civili delle prostitute. Credo che lei abbia parlato in maniera molto seria, ha fatto dei discorsi giusti e credo che il sindaco Alemanno abbia fatto un altro discorso giusto, quello di considerare reato la prostituzione sulle strade, nelle strade. Beh, lei è un po' conflittuale però, perché se dà ragione a Carla Corso e a Alemanno, si deve regolamentare, la conseguenza di questo è la regolamentazione, la regolamentazione. Rendere ufficiale e normale questo tipo di lavoro all'interno delle casse chiuse, basta prendere a modello quello che succede negli altri paesi del nord Europa. Tutto. Quindi lei dice questo, va bene, grazie Paolo. Voglio andare da Alessandro a Genova, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Io mi unisco a quello che ha detto appena adesso Paolo, il regolarizzare la prostituzione come i paesi del nord fanno, per una questione semplicemente igienica, in primis per una tutela di queste ragazze, soprattutto per togliere il lavoro nero, che in questo momento economico in Italia potrebbe anche giovare alle casse dello Stato. Fare cassa anche su questo. Va bene Alessandro, non so, Santori voleva rispondere a chi? A Carla Corso, che così poi le può replicare su cosa voleva? Sì, velocissimamente sul... Io non sono d'accordo sulla riapertura, almeno non è il momento, non è il momento politico in questo frangente, perché prima bisogna introdurre questo reato sulla prostituzione in strada. La normale conseguenza, ma già lo è, ci sono tante prostitute che già lavorano all'interno degli appartamenti, quindi lo fanno in nero, quindi io in realtà la questione si conosce, soprattutto nella città di Roma, basta andare in un sito internet, qualsiasi. Ho capito, ma infatti ma sembra Santori quasi come uno che ha la polvere e la mette sotto il tappeto, cioè basta che non la vedo per le strade, poi no. Ma la normale conseguenza, poi ci sono dei tempi che vanno rispettati, perché oltre 50 anni dalla legge Merlin ancora il paese non è maturo a mio avviso, o almeno il Parlamento che non riesce neanche a approvare una legge di questo genere, serve un cambiamento culturale e servono ancora dei tempi, non è ancora maturo. Sono, qui a Roma e soprattutto in altre, tutta l'Italia, cioè c'è una grande prevalenza di azioni che non vanno in questa direzione. Insomma, il punto è sì al reato, ma non quel passo successivo che sia il sindaco di Albenga, Rosy Guarnieri, sia Carla Corso chiedono. Carla Corso ha sentito, cioè, il tempo non è ancora maturo per una 50 anni la legge Merlin, tutte le volte che si tocca la legge Merlin, chi ci ha provato a dire rivediamo la legge Merlin, facciamo come in Germania, facciamo nei paesi del nord, istituzioni, niente, crolla tutto, cioè polemiche per 2 o 3 giorni e poi niente. Perché secondo lei? Nessuno vuole mettere mano a questa legge perché è una legge, anche se non sembra, estremamente importante, che va a toccare tutta una serie di equilibri, ma comunque che riguarda la sessualità. In questo paese le leggi che riguardano la sessualità non ne hanno mai fatte, le hanno fatte brutte, quelle che hanno fatto, la prima la legge sulla violenza, poi la fecondazione assistita e via dicendo. Questa non se ne vuole mettere le mani proprio per questo. Poi questo stato di cose così, questa sorta di limbo va bene a tutti, perché così ogni anno fanno le... Quando fanno i provvedimenti i sindaci, non è vero che falliscono, fanno i ricorsi vengono sempre vinti dalle prostitute. Le ordinanze. Perché è anticostituzionale rendere un reato una cosa che non lo è. La legge Merlin non dice che è un reato prostituirsi, la legge Merlin dice che le donne devono essere libere di non essere richiuse nei bordelli. Certo. Allora non si può più usare la parola come case chiuse o bordelli. Si faccia una legge moderna come la fa l'Olanda, la Germania e come ha fatto il Belgio e si lasci le persone lavorare e pagare le tasse esattamente come chiedono, ma non si faccia ricorso a questi termini poi così obsoleti, vecchi, di casa chiusa o quant'altro. Se il governo volesse, la legge viene approvata in un mese anche. Infatti il problema è quello, perché non sono pronti, cosa vuol dire i termini non ci sono, non sono passati gli anni? Perché non sono pronti a fare nulla. Sindaco Guarnieri, lei che ha detto, l'ha chiesta Maroni, lei è della Lega, quindi il ministro dell'interno Maroni magari ha un accesso al ministro Maroni un po' più semplice del nostro, che gli ha risposto Maroni a questa cosa delle partite IVA alle prostitute? No, noi come leghisti siamo d'accordo nell'affrontare e regolamentare questa attività. Difatti la Emanuela De Lago, il nostro parlamentare, ha presentato a gennaio del 2009 un disegno, una proposta di legge. Ma dove è finita? Ma infatti, come diceva prima il Presidente della Commissione, purtroppo queste l'iter delle leggi, del vaglio delle leggi, sono molto lunghe e probabilmente ci sarà anche qualche ostilità di qualche forza politica, questo io non sono in Parlamento, quindi non sono in grado di dirglielo. Io concordo pienamente con quanto detto dalla signora Corso, perché effettivamente deve essere rivista in un modo, non come era la legge Merlin, ma in un modo più moderno, in un modo così come hanno fatto altri stati, ma non si può lasciare la scelta a metà. Se si vieta, deve essere riconosciuto un reato in strada, deve essere necessariamente detto quale deve essere la seconda fase, sì. Non può essere lasciato a metà, perché altrimenti si vuole chiudere gli occhi su una cosa e poi, come dice la vostra trasmissione, o vedo il bianco o vedo il nero, non mi piace molto. Ecco, quindi devo dire, comunque non capisco questo che dopo 50 anni non vi è ancora, non sono i tempi, non sono maturi. No, beh, 50 anni, anche perché ci hanno provato, in tutti i modi, appena uno tocca questi fili, certo, della cosiddetta legge Merlin rimane fulminato. Non si capisce. Ma noi comuni mortali non è ancora dato a conoscere quali sono le motivazioni, le possiamo ipotizzare, ma non le possiamo. E ne ipotizzi una, secondo lei, qual è? È la famosa ipocrisia italiana. L'ipocrisia italiana. Non so da chi deve decidere, è la politica, e vorrei ricordare a tutti i politici che è sempre chiamata a decidere, nel bene e nel male la politica deve decidere, non deve logorare. E quindi cambiamento culturale, mi pare che le telefonate che ho sentito in diretta, ma tanti altri cittadini comuni, siano pronti per accettare. No, ma infatti, cioè, mi pare che anche i messaggi, guardi, è un profluvio di messaggi a dire regolamentiamo. Sentiamo anche Giovanni da Varese, leggo che anche lui mi scrivono qua sotto: la prostituzione va regolamentata come le altre professioni. Lei di questo avviso, Giovanni? Ma io veramente avevo detto un'altra cosa. Dica, che assolutamente, come non si possono fare altre attività così per la strada, appunto, se no si incorre in quantomeno in azioni di rimozione. Lo stesso deve valere per la prostituzione. Poi i mezzi, come attuarli, non so se, per esempio, a me viene in mente l'esempio degli Stati Uniti, che è il paese della libertà, sì, cioè, insomma, dove quando vieni beccato per una multa non è che ti lasciano un fogliettino di che paga questa multa fra 60 giorni e ti lasciano andare, ti portano ti portano via o ti fermano proprio in prigione e ti fanno tu pagare. Non hai pagato. Cioè, cosa sta dicendo? Che in Italia c'è un po' di lassismo perché le norme ci sono. Cioè, se io adesso scendo e vado per strada e inizio, che ne so, a sporcare, a fare, a svestirmi, io credo che se passa un poliziotto mi fermi, no? No, questo è. Se organizziamo in 50 persone davanti al Parlamento, andiamo a fare i nostri bisogni fisiologici, credo che non è che passi un vigile e ci fa la multa e finisce così, credo. E nessuno vuole vietare i bisogni fisiologici, cioè mi sembra. Insomma, lei dice un po', c'è un po' appunto questa ipocrisia italiana, anche un po' di lassismo, mi sembra di capire. In ogni caso, io qui mi devo fermare. No, dica Giovanni. Dico, più che altro servirebbe magari anche questa cosa qua del fermare la prostituta e il cliente finché non ha pagato, in modo che non svicoli, perché oggi non c'è una legge. A pagare che? Genere, che a pagare che? Sì, prima almeno la multa, capito? Mettiamo una multa di 1000 euro e almeno la fermiamo. Ma dice che la fanno, poi ci sono i ricorsi perché queste ordinanze sono incostituzionali, le vincono. Vabbè, in ogni caso, eccoci qua. Il tema, come vedete, è molto sentito. Voglio ringraziare Fabrizio Santori, presidente della Commissione Sicurezza al Comune di Roma, così come Rosy Guarnieri, sindaco di Albenga in provincia di Savona, e Carla Corso, che è fondatrice del Comitato per i diritti civili delle prostitute, per essere stati con noi, con Alessandro Longoni in redazione, Roberto Scaltritti in regia. La linea la passiamo tutta con microfono a Oscar Giannino. Noi ci siamo su Facebook 24 Mattino e c'è anche la nostra mail 24 Mattino e radio24.it. Scriveteci pure. Ci sentiamo domattina alle 7:20.